Stavamo vedendo nella lotta con il Yetzer Hara, che ognuno di noi dentro di sé ha l'anima Nefesh Elokit, l'anima divina e l'anima animale, la Nefesh HaBehamit. Abbiamo visto nella prima parte di questo discorso, nella scorsa lezione, che la fonte dell'anima divina, che è una fonte molto elevata, prima di nascere viene fatto un giuramento, una shevuah. E abbiamo detto che questo giuramento, Tehi tzadik ve'al tehi rasha, sii uno tzadik e non essere un rasha, è anche shevuah milashon sova. Se noi cambiamo la shin in sin, dalla shin alla s, shevuah diventa non mashbi'in, si fa giurare, ma masbi'in, si fa saziare. Si sazia l'anima divina. Cosa significa si sazia? Gli si danno le forze fino a sazietà, finché è colma e piena dell'energia che ha bisogno per sottomettere il materiale e usarlo per la Kedushah. E questo, quindi, all'interno della persona, la dinamica che si crea è una dinamica che in qualche maniera dà alla Nefesh Elokit, all'anima divina, la possibilità di fare tutto ciò che è richiesto da lei, anche quando crede che non sta davanti a qualcosa di troppo forte, sta davanti a tutte le cose del mondo che sembrano essere quelle le cose che valgono in questo mondo qua. Invece ci insegnano i Chachamim che la Neshama ha una forza che bisogna tirare fuori, che è molto maggiore rispetto alla forza della Nefesh HaBehamit, già all'interno della persona stessa. Dentro di te hai già la chiave. La seconda parte che adesso vediamo si riferisce alle problematiche che possono derivare dall'esterno della persona. Di nuovo, la prima parte, quello che abbiamo visto l'altra volta, è che c'è la registrazione disponibile, cos'è, e come la persona gestisce i problemi all'interno di sé, che dentro di noi abbiamo qualcosa che si rema contro, l'anima animale. E la Neshama Elokit, la Neshama divina, ha la forza per soprassedere. Ora vediamo la seconda parte. Il secondo aspetto è quello che le problematiche che ci derivano non dall'interno di noi, ma dall'esterno. Vediamo Perek Bet, Ve'atana Hashenit, la seconda scusa che ogni persona potrebbe avere. Mashe Pelloni esitò. Dice, beh, mi ha convinto quello, mi ha trasportato quell'altro, e ho tutta e ogni volta è colpa di qualcun altro, non è mai colpa mia, vero? E inata ana amitit. C'è sempre qualcosa all'esterno che influisce, ma questo non è un ragionamento sufficientemente autentico, non è una vera scusa. Sharei be'emet tzarich lihitrachek me'ishra ve'rasha. Se davvero esiste un'amicizia con una persona malvagia o negativa che può influire sul mio comportamento, che diventa anche quello malvagio, allora bisogna allontanarsi da un'amicizia di questo tipo. Ve lo yitchaber elav, e non entrare in amicizia di questo tipo qui, che, come dicono i Chachamim, harbe chaverut osa. Il fatto di stare in compagnia, la vita sociale, fa molto, incide molto sul carattere della persona, perché il nostro carattere è anche formato dal tipo di socializzazione che facciamo, dal tipo di persona che frequentiamo. E quindi, chaverim tovim, quando abbiamo buoni compagni e amici, mevim tova harbe el adam, portano molto bene alla persona. A parte lo studio, perché quando si studia la Torah si studia sempre almeno in coppia. Chi mi leva, c'è alimud tovim chaver, a parte che nello studio è bene studiare con un'altra persona, che Moshe Katuv, come è scritto nel Kohelet, tovim hashnaim, min ha'echad, due sono meglio di uno. Ukmo shedarshu raboteinu zichronam livracha, e come i nostri maestri hanno spiegato nella Gemara di Berachot, al Pasuk, commentando il pasuk, il versetto che dice Cherev el Habadim, che Cherev, la spada, el Habadim, letteralmente si parla dei, come si dice, quei maghi, quelli che si comportano con magie, cose occulte che sono vietate per la Torah, eccetera. Allora, i maestri dicono su questo versetto che coloro che odiano le parole della Torah, le parole dei Chachamim, e studiano, ma studiano da soli, cioè non prendono in considerazione l'aspetto sociale di studiare insieme e di rispettare le parole dei Chachamim, che spiegano le parole della Torah, allora è considerata una cosa molto grave, come se invitassero una spada, per così dire, un cherev. I maestri dicono questo. Inoltre, in elevat zot, ma she yedabru yirei Hashem, ish el rei ehu, zepoel harbe meod. Oltre allo studio in compagnia, che è molto importante per davvero apprezzare il senso di quello che si sta studiando, perché studiando da soli i maestri allungano la spiegazione in altri posti, non qui, quanto può essere non sufficiente lo studio da solo, perché si potrebbero fare molti errori e ci si potrebbe accontentare di un livello di comprensione che però, studiandolo, approfondendo con altri, non ci si fa lo sconto e si cerca di capire davvero molto meglio e così via. Oltre a questo aspetto qui dello studio, però, anche il concetto di socializzare, cioè avere buoni amici, buoni compagni, in un contesto oltre a quello dello studio, è molto importante. Perché? Chi ein adam roe nigeatsmo. Una persona è difficile che veda i propri difetti. È più facile vedere i difetti degli altri, come vediamo benissimo. Vero? Anche una moglie, anche un amico. Vero? Mitzad ahavat atzmo, perché una persona per l'amore di sé, al kol peshaim tichase ahava, c'è scritto che, e c'è scritto nel Mishlei, nei proverbi, al kol peshaim tichase ahava, su ogni, diciamo così, fallimento, peccato, eccetera, pesha, come un peccato, tichase ahava, l'amore lo ricopre, lo nasconde. Quale amore? L'amore di sé. Una persona può aver sapere che ha sbagliato, però comunque mi voglio bene lo stesso, no? Ma se ohev et atzmo. Bravo. E quindi veinoro e apshaim shelo. Non vede o comunque non dà molta importanza o abbastanza importanza alla propria, esatto, alla propria, ai propri difetti. Ma chavero, se ha un buon amico, roe, lo vede, ve yodea, yoter mimenu, e lo riconosce meglio della persona stessa. E viceversa, ovviamente, no? È reciproca la cosa. Un mochicho alze, e l'amico buono, che vuole davvero bene alla persona, lo riprende. Vegame da bera libo, non che solamente lo riprende e se ne va, ma lo persuade, lo aiuta, gli spiega il problema di come si è comportato. E questo è davvero il significato della vita, lo scopo della vita, di andare, di camminare su un percorso che è giusto, che è corretto, onesto. E quindi tutto ciò che può essere una socializzazione positiva, porta molto bene in maniera profonda alla persona. Dall'altra parte, una amicizia negativa, l'amicizia con un malvagio, con qualcuno che ti porta dall'altra parte, un amico malvagio, ha un effetto molto negativo sulla persona. Perché lo fa abbandonare, lo persuade ad abbandonare la via giusta e la via corretta, buona e corretta. Vegorem, e può essere la causa, l'altra persona, che tu fai delle cose che non avresti mai fatto. Cioè, Asher Dvarim, che prendi dei comportamenti o dei modi di pensare, eccetera, Asher Me'atzmo Be'emet lo haya Asher Dvarim Eilu, che non avrebbe mai fatto queste cose di proprio. Asher Anu Roim Bechush, Roim Zebuch, come vediamo abbastanza chiaramente nella vita, Beharbe Benei Adam, lo vediamo in molte persone, Shahayu Tovim Mitzad Atzmam, che di loro sono persone buone e oneste e corrette, però Valiedei Hitchaberutam L'Anashim Raim, l'essere socializzare, essere amici, tenere amicizie con persone malvagie, diventano anche loro malvagie. Nasim Raim Vechataim e peccatori, Rahman Alitzan, che Dio ci scampi. È questo che si dice nella Mishnah, Ve'alzen Nitztavinu, è questo quanto ci istruiscono, ci comandano i Chachamim. Nella Mishnah de Avot, Perek Aleph, che ne lecha chaver, acquistati un compagno, un amico. Ovviamente, hainu chaver tov, non è che ci dicono i Chachamim di acquistare un amico malvagio. Shearbe tovat ekabel meito, poiché potrai ricevere un gran bene da questa amicizia. Ulehefech, e d'altra parte, harchek, dicono i maestri sempre nel Pirkei Avot, harchek mishachen ra, allontanati da un vicino malvagio. E come dicono anche i maestri, alti tchaber la rasha, non diventare amico del malvagio. Che mamma raboteinu zichronam racha, come dicono i maestri nella Gemara, il trattato di Sukkah, oi la rasha ve oi lishcheno. Ahimè per lo rasha, per il rasha, il malvagio, ahimè per il suo vicino. Che ha fatto di male il vicino? Ha subito l'effetto del malvagio. Ha subito l'effetto. Rashi, proprio l'altra settimana abbiamo letto Korach, e dice la parasha della storia di tutta la ribellione contro Moshe e Aaron guidata da Korach. Inizia con le parole Vayikach Korach, e Korach prese. Cosa prese? Dov'è il soggetto del prese? Non c'è scritto. E Rashi dice Korach prese le persone, le prese con la parola, con il convincerle. Quindi l'essere stato amico di Korach è andato a danneggiare anche le persone che sono entrate in quell'amicizia, perché sono state prese da lui nel suo progetto, nel caso specifico, ma in generale. Kol sheken kesheye chaver elav. Se uno è vicino, già non va bene essere vicino di un rasha. A maggior ragione se è anche amico, se gorem lo rarbe, causa ancora più male. In kenare umit chayev benafsho. È come se la persona si condanna a se stessa che si mette in quella situazione. Al zesh itchaber la rasha. Ubameu matzdik atzmo. E come fa a giustificarsi? Abbiamo aperto il capitolo dicendo abbiamo una giustificazione, abbiamo una scusa, non è colpa mia, è stato influenza dell'altro. Ok? Se vedi che sei sotto un'influenza negativa, vai via, cambia amicizia. Certo, non è semplice, però se l'amicizia ti porta a diventare un peccatore, significa che non è un'amicizia corretta. Cioè la prima problematica, il primo peccato, tra virgolette, è stato quello di diventare amico del malvagio, anche senza aver fatto nulla di male di per sé, obiettivamente. Dici, io non ho fatto niente. Sì, ma già questa amicizia stessa non sai dove ti porta. È solo che, come dicevamo, la persona cerca sempre una scusa per l'amore di sé, per giustificarsi, e quindi a volte queste scuse sono anche delle falsità. Cioè la stessa cosa che è proprio la colpa sarebbe nell'avere un amico malvagio, questo stesso diventa la scusa, non è colpa mia perché è mio amico, ma la colpa è questa, che hai un'amicizia così. La giustificazione significa che la sua teshuvah, il suo sentimento di pentimento per la sua azione, eccetera, non è abbastanza forte. Perché se fosse una teshuvah molto più sincera e forte, allora non si giustificherebbe direbbe, riconoscerebbe l'errore. Invece chi dice, guarda, io faccio Teshuvah, però non era così sbagliato. Allora la Teshuvah non è così forte, ovviamente. No? Quando ancora ha le scuse tutte in saccoccia, allora significa che se io mi sento giustificato, è chiaro che il pentimento non è così forte se mi sento giustificato. Il pentimento, la vera Teshuvah profonda, è quando riconosco l'errore per davvero, per quello che è. Dico no, ho sbagliato, allora mi pento, allora è un altro livello di pentimento. Quello che dice sì, ho torto, però, allora tutti questi però significa allora non ho così tanto torto. Allora significa anche il pentimento non deve essere così forte. Saltiamo questo pezzettino. Ubifrat be'etzem ha'teshuva. Però, cioè, comunque ci devi avere una predisposizione. Nel senso che non è che solamente l'amicizia malvagia ti porta, cioè la persona se ha l'amicizia malvagia, okay, però ha la predisposizione a andare verso quella persona, perché comunque la forza... Già il fatto che crea quell'amicizia è uno quello. Forse è già portato. Esatto, è già portato. Poi comunque di fronte alla persona che malvagia, all'amico malvagio diciamo, cioè uno può anche vedere, ok, l'esempio dello sbagliato, allora vado dall'altra parte e non lo seguo. Sì. Quindi comunque dare no la colpa, intendo tra virgolette, all'amicizia sbagliata, a quello che diventi te, è facile. Esatto. Però non è sempre... C'è Fabio, se gli vuoi dare la cassa. Grazie. Grazie mille, Alberto. Sì. No, la cassa. Grazie. È una scorciatoia semplice. Sì. Però, se noi pensiamo un attimino a quello che è, anche nel mondo della psicologia moderna, a quanto effetto ha la società sui comportamenti delle persone, è molto, molto, molto di più di quello che possiamo anche immaginare. E ancora di più di quello. Quanto la pressione sociale, in un modo o in un altro, influisce sul comportamento della persona, è qualcosa di davvero spaventoso, ma soprattutto non inconsciamente lo facciamo. Cioè l'essere umano è un essere sociale proprio che neanche si rende conto di quanto il suo comportamento è quasi un'imitazione del comportamento della società. Ecco perché è davvero molto difficile, certo è vero, può essere uno che è più predisposto, meno predisposto, eccetera, ma come regola generale siamo esseri sociali. E quindi, se è così per la società in generale, ha maggior ragione per quelli che stanno ancora più vicini a noi. No? Perché ecco perché i Chachamim parlano delle amicizie, che nelle Chachaver acquistati un buon amico, eccetera. Però qui va anche aggiunta un'altra cosa. Qual è il problema appunto di questo tipo di amicizia, di socializzazione? È che noi assorbiamo dal nostro ambiente. Quindi se quell'ambiente è marcio, in un certo senso, almeno a livello spirituale, allora assorbiamo quel problema e c'è qualcosa di marcio anche dentro di noi e poi è una catena che una cosa tira l'altra, come tutte le cose. Questo perché siamo in una modalità di assorbire. Ora, noi abbiamo però nella Torah la mitzvah. Ocheach, tochiach et amitecha, cioè riprendere, dimostrare agli altri la via giusta, eccetera, eccetera. Però se io non devo avere a che fare con qualcuno che ha un comportamento non buono, come posso entrare in contatto con queste persone? Dovrei tenermi lontano tante miglia e rimanere nel mio ambiente. Vivere una campana di vetro. Bravissimo. Proprio la società che ti circonda, da una televisione a una radio. Bravo, bravo. Già bravo. Quelle sono tutte distrazioni. Allora quello che sto dicendo, quello che voglio dire è questo. Questo è quando tu sei in una modalità di assorbire, di assorbimento. C'è nella halakha della kasherut una regola che un elemento di cibo potrebbe assorbire da un altro elemento. Ecco perché quando c'è un miscuglio tra un elemento kasher e un elemento non kasher, c'è una belia, un assorbimento e diventa, potrebbe diventare anche questo non più kasher. Ma quando qualcosa è in una modalità di dare, non di assorbire, non di prendere, ma di dare, allora non ha possibilità di assorbire. Quando il sangue sta uscendo per il sale che rende kasher la carne, e c'è un altro elemento che arriva lì, se il sangue sta uscendo, quindi la carne sta dando, non sta ricevendo, rimane kasher. Ayeded tared liflot lo balà. Quindi se sei occupato con il trasmettere, allora non ricevi. Significa, non è che noi dobbiamo staccarci dalla società, dobbiamo gestire la modalità che entriamo in contatto con la società. Sono io che prendo dalla società o sono io che do alla società? Allora se io incontro un altro ebreo e dico questo ebreo è malvagio, allora mi metto il cappello sugli occhi, metto gli occhiali scuri, non guardo, non vedo. Perché? Perché ho paura di ricevere dalla sua malvagità, come abbiamo descritto prima. Però se io vado da lui e gli dico, guarda, vieni a studiare un po' di Torah, vieni a mettere i tefilin, vieni ti insegno qualcosa che insegnano i nostri chachamim, allora è lui che sta ricevendo da me, e non viceversa, non il contrario. Di conseguenza bisogna sempre tenere in mente questo equilibrio. Quando noi studiamo che bisogna allontanarsi da un amico malvagio, significa se c'è un amico che è il nostro amico che ci sta portando su una strada negativa, sui peccati, eccetera, è chiaro che dobbiamo dire non posso più essere tuo amico se tu ti comporti così. Però dall'altra parte, questo non significa che dobbiamo rompere tutti i rapporti con tutte le persone che ci stanno intorno, significa che dobbiamo stare in una posizione di forza. Posizione di forza significa che avere il controllo della qual è la direzione del flusso? È in entrata o in uscita? Se la direzione è in uscita, in bene, allora non c'è l'entrata in male. Avere il controllo della gestione del nostro flusso. Bravo, controllare il proprio flusso, bravissimo. Poi, posso? Uh-huh. Quello che diceva Ariel, però non lo vedrei così semplice, che se uno, allora vuol dire che ha una certa predisposizione, perché se no non si farebbe coinvolgere. Anche perché ci sono persone e temperamenti che sono in buona fede, aperti, positivi al massimo. Sì, e non è assoluto. Poi magari si trovano coinvolti loro malgrado, non perché siano predisposti. Allora sì, sì. Il meccanismo si mette in moto e magari poi cominciano a capire che quello lo sta portando. Non è detto che sia perché sia... Sì, ma può darsi, ci sono alcuni così, alcuni così. Sì, ogni persona è diversa, quindi abbiamo diversa, tutti i gradi in tutti i livelli di... Comunque, concludiamo con questo qui adesso che... Scusate, devo scappare, però un buon amico aiuta a vedere, ad aiutare la persona a riconoscere i propri difetti e quindi a crescere, a cercare di, diciamo così, aggiustare, fare bene di questi difetti. E aiuta quindi a raffinare i propri tratti caratteriali, a crescere nelle midot tovot, nei buoni tratti caratteriali. Mentre un'amicizia malvagia proprio è una cosa che al contrario incide anche sul comportamento dell'amico che in teoria non sarebbe malvagio. E quindi la scusa di dire non è colpa mia in realtà non è una scusa. Perché alla fine una persona, come dicevo, deve lui o lei gestire la propria vita e non può dire io sono così per colpa di qualcun altro. Sì, può darsi che è a causa di una questione sociale, però la colpa alla fine non si può dare a nessun altro. Ognuno è responsabile della propria vita, ognuno è responsabile delle proprie azioni, dei propri comportamenti, e quindi ciò che può essere, come dicevamo all'inizio, un problema dall'esterno, fino ad un certo punto. Certo, lo può essere, però la responsabilità è comunque nostra. E quando ci assumiamo, davvero riconosciamo di assumere questa responsabilità, ci rimane anche più facile gestirlo, perché quando credi che non sei responsabile, allora dici non posso gestire, non sono responsabile, ma quando riconosci che hai la responsabilità e hai anche la forza per gestirlo, allora diventa di conseguenza anche più semplice, non è mai facile, ma diventa anche un po' più semplice la gestione stessa. La prossima volta procederemo con altri aspetti di questo tema.